Giochi sul nostro tavolo. Edizione Kickstarter. Il podcast ludico. I woke up this morning on the wrong side. Ciao a tutti, benvenuti a Giochi sul nostro podcast edizione Kickstarter. Siamo oggi qui con Antonio Ferrara, il capo, piuttosto che magari, non so come dirlo, la testa pensante che sta dietro Escape Studios, ovvero la società che in questo momento ha un progetto di Kickstarter che si chiama Stay Away, il quale sta andando, direi, bene. Che ne dici, Antonio? Sì, ciao a tutti, innanzitutto. Allora, devo fare una precisazione. Le teste pensanti sono due. Antonio Ferrara, che sono io, e poi c'è Sebastiano Fiorillo, che comunque si occupa della parte da lui, un architetto, quindi cura l'immagine di quello che facciamo, e poi mette anche le sue idee, ovviamente, no? Siamo noi, diciamo. Per quanto riguarda la campagna che abbiamo in corso, abbiamo un gioco, un card game, si chiama Stay Away, e sta andando abbastanza bene, anche se stiamo lavorando per portare, insomma, altri backers, altre persone, perché insomma, quando si avvia una campagna Kickstarter, la tua vita si ferma, la tua vita sociale, quello che era prima, e inizia l'avventura Kickstarter. Esatto. E quindi, Ci sei solo per Kickstarter e per il tuo piccolo progetto che vuoi far diventare grande. Praticamente sì. La cosa bella è che per quel poco che so di Kickstarter esiste un tool, anzi un sito internet che si chiama KickTrack e che ci dice dove sta andando a finire ognuno delle campagne che sono in corso. Io ho messo la vostra campagna, quella di Stay Away, e diciamo voi state tendendo verso $23,000 circa, sì. Però KickTrack molto spesso è esagerato nel suo modo di rappresentare le cose, perché prende semplicemente i pledge che sono stati fatti in media e li moltiplica per il numero di giorni in cui voi siete attivi come campagna. Però c'è un però, praticamente l'esperienza mi dice che più o meno quando andiamo a guardare il trending del nono, decimo giorno, oggi siamo al dodicesimo, quel trending lì è abbastanza attendibile, e qui abbiamo una bella forbice che va da 14.000 euro fino a 22.000 euro, quindi direi che non mi sorprenderei se andassimo in una media di circa una 17-18.000 euro, poi ce lo sapremo dire quando la campagna finirà, sempre che voi non stiate attivamente facendo delle azioni per, come dire, cambiare questo esito e portarlo molto più in alto, tipo, non so, pubblicità piuttosto che azioni pazze di marketing virale. Dimmi tutto. Allora, stiamo facendo un po' di tutto, ti dico la verità. Allora, il discorso è questo: visto che agli ascoltatori, insomma, interessa forse più il concetto Kickstarter, come funziona, come proporsi, che il nostro progetto è che in questo momento preso in esame. Sì. Io ti dirò, visto che abbiamo fatto già altre campagne, che il grosso si fa all'inizio e agli ultimi 2-3 giorni della campagna. Ok. Questo perché Kickstarter, per quanto riguarda i primi giorni, mette il tuo progetto nei progetti appena lanciati. Quindi tu prendi tutte quelle persone che passano di lì e vanno a guardare i progetti appena usciti. E la stessa cosa fa a fine campagna. Quindi a fine campagna cosa succede? Che Kickstarter ti inserisce nei progetti che stanno per scadere, e quindi praticamente anche chi non ha visto il progetto, il cliente abituale di Kickstarter, a quel punto hanno la possibilità di vederlo e di pledgeare, insomma, sì, di fare una donazione. Alla fine non solo questo, ma anche proprio tutti coloro che hanno fatto il Remind Me 48 ore prima, diciamo, sono belli pronti a vedere come sta andando, sì, la campagna, andare Diciamo che Kickstarter, in realtà è questo, noi per quanto riguarda le altre campagne ci siamo resi conto che un 50% arriva da Kickstarter. Sono utenti già di Kickstarter, persone che abitualmente hanno comprato, insomma, hanno fatto donazioni su Kickstarter, diciamo così, anche 2, 300, a volte 1000, 1500 donazioni, cioè sono come se fossero dei clienti abituali di Kickstarter che Sì, comprano. se ci immaginiamo Kickstarter come un grande magazzino, queste persone sono gli habitué di questo grande magazzino. Perfetto, perfetto. Invece l'altro 50%, ecco, poi spetta a te. E lì viene la parte dura, perché in realtà devi fare una campagna pubblicitaria, devi essere virale per forza, rischi di essere bannato da parecchie persone o comunque community, forum, siamo stati ripresi anche, perché poi ti prende una sorta di agitazione del dover fare, perché alla fine c'è questo countdown del progetto, e quindi praticamente a un certo punto spesso ti fai prendere dal panico e inizia a. Ecco, questo a sottolineare il fatto dell'importanza estrema del tutto il discorso prepararsi per una campagna, nel senso che è vero, è giustissimo fare attività di promozione durante la campagna, perché è chiaro che essendo la campagna nel vivo, come dire, c'è una sorta di enfasi innaturale legata al fatto che la campagna è già incominciata e quant'altro, però molto del lavoro solitamente lo si fa generando rumors o comunque in generale un po' di chiacchiericcio a riguardo prima. Voi cosa avete fatto da questo punto di vista? Come vi Allora, siete mossi? questo punto di vista, abbiamo interpellato vari canali, vari forum che riguardavano il game, appunto il nostro è un card game, quindi vari portali, abbiamo proposto anche delle versioni beta test stampabili e in realtà abbiamo avvisato i nostri precedenti, avevamo circa 1000 backers precedenti delle altre campagne, gli abbiamo mostrato l'anteprima della campagna, perché è possibile prima di lanciare un progetto avere un link per un'anteprima e quindi farla vedere in giro, cioè inviarla a utenti, community, per poter avere un parere in merito, ecco, cosa ne pensano del progetto, del gioco, poi dipende dal prodotto. Insomma, in questione, ecco, se è un gioco, un oggetto, Se è un progetto, una performance a seconda di quello che deve essere. Io effettivamente devo farvi complimenti perché, come dire, è arrivato anche a me questa cosa, nel senso che vi siete pubblicizzati sul sito inventoridigiochi.it e appunto ritornando al discorso dell'essere bannati e quant'altro, avete un po' camminato sul filo del rasoio fra comunicare semplicemente il fatto che volevate fare questa campagna sul sito inventoridigiochi.it e fare una vera e propria pubblicità, ma ci sta. Paolo vi ha un po', Paolo che è il moderatore, vi ha un po' ripreso, però intanto il messaggio era arrivato. Questa cosa è tipica, diciamo, della cazzimma napoletana, insomma, Sì. avete avuto questo approccio che ci può stare. E io l'ho visto, insomma, il progetto prima che partisse l'ho visto grazie a inventoridigiochi.it. Altri modi con cui vi siete pubblicizzati? No, basta. Ah, Cioè, ok. sì, siamo rimasti qui. Anche perché, ti dico la verità, siamo alla nostra prima esperienza di gioco, questo è il nostro primo gioco che creiamo, inventiamo, diciamo così, visto che siamo andati in goal, speriamo, ecco, se a meno che gli utenti non tolgano i pledge, il gioco andrà in produzione. Sì. Quindi praticamente è la nostra prima idea di gioco, quindi eravamo anche un po', siamo anche un poco spaesati, ecco, non essendo del settore, cioè fino ad ora siamo stati utenti, giocatori, adesso diventiamo anche inventori e produttori, insomma, ne abbiamo di strada da fare, siamo ancora un po' acerbi anche per su quanto riguarda il marketing oppure per quanto possa essere la comunicazione, ecco tutto. Per quanto riguarda la parte produttiva, te ne occuperai tu, cioè da chi lo farlo stampare, come distribuirlo, perché ci sono varie possibili, come dire, trappole, inciampi che si possono fare in questo percorso. Ci affideremo a una società americana per cui già lavora che poi fa capo a una società in Cina, perché ormai si fa tutto lì, Sì. dove già lavora la Hasbro, la Mattel, cioè quindi già multinazionali. Noi ci siamo rivolti a chi poteva garantirci un prodotto di qualità. Quindi la distribuzione partirà, vabbè, non dalla Cina, nel senso che comunque dalla No, no, Cina no. verrà prodotto, però poi la distribuzione partirà dall'America. la distribuzione partirà dall'Italia, cioè nel senso che dobbiamo dividere le due cose. Allora, c'è una produzione Kickstarter in cui i backers quindi dovranno ricevere il prodotto. A questo punto l'America produrrà e manderà a noi. Noi poi singolarmente per ogni persona ci occuperemo della logistica, come abbiamo fatto un po' con gli Eternity Dice, che erano i dadi di pietra. Quindi dall'Italia questo? Dall'Italia partiranno, sì. Quindi ogni pezzo partirà dall'Italia a tutti gli effetti, non parte nulla? No, dall'America non parte nulla, anche se abbiamo un contatto americano che potrebbe agevolarci il compito. Però visto che vogliamo fare le cose fatte bene in un certo modo, a Napoli c'è un detto che penso in tutta Italia, chi fa per sé fa per tre. Non sei preoccupato dei costi di spedizione, cose di questo genere? Ti sei già informato a riguardo oppure... No, già ci siamo informati, perché questa è una cosa importante, la progettazione dei costi Kickstarter, perché non è tutto oro quello che luccica. Uno, vedendo le campagne che abbiamo fatto, anche degli Eternity Dice, dice: mamma mia, questi hanno alzato una barca di soldi. Non è così. Bravo, sono contento che sottolinei questa cosa qua, perché io tutte le volte cerco proprio di sfatare l'idea che Kickstarter siano soldi facili. È un ottimo strumento per quello che è pensato, ovvero per realizzare un sogno, vedere realizzata una propria passione, ma sicuramente questo è possibile farlo se ci si sbatte tanto, e sicuramente non per soldi, diciamo, cioè ci sono modi migliori per fare soldi. Sì, no, ecco, questo volevo dire, non si vive di Kickstarter, ecco tutto. Sì. Perché ci sono tante spese, tra cui le royalty Kickstarter, quelle che si prende Amazon, le banche che fanno i trasferimenti bancari, le tasse, il prodotto, la spedizione, il packaging, insomma, è tosta, ecco tutto. No, alla fine resta poco. Con i precedenti progetti che hanno avuto successo, le avete portate a compimento, diciamo, fino in fondo, oppure sono ancora in processo di realizzazione? No, sono finiti, completamente finiti. Mm-hmm. Anche perché Kickstarter ha una regola: se uno non finisce il progetto, ma anche loro intendono finire il progetto, cioè la consegna del prodotto, un account non può partire con un nuovo progetto. Quindi noi abbiamo dovuto per forza ad uno finire i progetti e poi portarli a compimento e poi partire con nuove campagne come questa qui in corso. Ottimo. E per quanto riguarda il mercato estero, come vi siete mossi, a parte i già backer delle vostre precedenti campagne ai quali avete comunicato queste cose qui, vedo che qui c'è una versione chiaramente sia in italiano che in inglese delle regole, e che la presentazione del video è rigorosamente in inglese. Sì, allora, per quanto riguarda l'inglese, ci siamo rivolti a una madrelingua americana, che poi praticamente colei che ci fa da base in America. Ah, ok, sì, Los Angeles ho visto. Los Angeles, sì, perché praticamente Kickstarter può essere usato solamente per chi è americano, solamente per chi è... Adesso apriranno tra poco anche in Olanda, in Regno Unito e altri paesi. Speriamo che arrivi anche in Italia. Questo sito Kickstarter Italia è qui apposta con la speranza che aprano anche in Italia. Aspettando di rendere le cose più semplici, però sai... Con la legislazione italiana questa cosa qua probabilmente potrebbe incontrare degli ostacoli, insomma, questa apertura di Kickstarter. Federico, ti volevo dire una cosa, scusami. A proposito, ecco, l'Italia mi ha fatto in mente una cosa che mi hai chiesto prima. Allora, siamo molto delusi, lo diciamo all'Italia intera, dagli italiani. Allora, gli italiani... non puntano su Kickstarter. Io esisto per questo, cioè nel senso che io sto cercando di diffondere la cultura di Kickstarter in Italia, perlomeno sul fronte degli appassionati dei giochi da tavolo. Lo faccio con Giochi sul nostro tavolo, nel podcast che ne parlo, quindi parlo spesso, diciamo, di progetti Kickstarter, e l'idea è proprio di partire con kickstarteritalia.it, nel quale questa intervista verrà pubblicata in maniera, come dire, parallela a Giochi sul nostro tavolo, proprio perché so già che prima o poi gli italiani si acclimateranno con Kickstarter e quindi diventeranno dei supporter di Kickstarter, però bisogna anche un po', come dire, dargli una spintarella. Tu ti sei trovato male, nel senso che non hai trovato riscontro? Allora, devi pensare che sulla campagna in corso abbiamo circa 250 backers, Sì. gli italiani sono una decina. Cavolo. Meno Beh, di quello che ci si aspetterebbe, sì. sì, e poi noi il grosso a livello pubblicitario l'abbiamo fatto proprio, diciamo, per quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto però in Italia, cioè noi la comunicazione è forte. Anche andando sui forum, parlando con la gente, guarda, vieni qua, cioè ce li siamo andati a prendere ad uno, cioè, e comunque sia, poi sai come funziona. Ah, sì, vengo, aspettami, e poi insomma. Guarda, adesso al più presto pubblicherò anche proprio l'esperienza di chi si registra per la prima volta su Kickstarter e fondamentalmente io credo che la stessa resistenza che stiamo vivendo in generale come nel mercato e-commerce è dovuta proprio all'ultimo passaggio, cioè al passaggio del dare la carta di credito e affidare ad Amazon i pagamenti. E questo quindi conseguentemente lo ritroviamo, secondo me, a maggior ragione su Kickstarter, per cui cioè, ci sono, come dire, lo schema del gioco è anche poco comprensibile, nel senso non sai che cosa stai facendo, stai facendo un pagamento o no, non, però perché non ti scala nulla dalla carta, ma quindi stai comprando qualcosa? No, perché non è detto che verrà pubblicato, sto comprando qualcosa per cui mi spetta per certo? No, perché tu stai semplicemente finanziando un progetto che se quel progetto va a buon fine, non è nemmeno in quel caso detto che otterrai l'oggetto per cui hai pagato. E, insomma, ci sono una serie di no e comunque una serie di elementi di confusione che probabilmente stanno facendo da barriera alla grande utenza. Poi chiaramente le persone come me, come gli appassionati giochi da tavolo che magari vogliono guardare al mercato americano, non hanno problemi. Io adesso devo dire che la maggior parte degli acquisti, purtroppo, mi tocca dirlo, li faccio online, quindi io sono veramente abituato a comprare online. Però. Bene, bene. E quindi voi vi aspettavate un ritorno maggiore da parte degli italiani. Questo vi ha fa cioè questa risposta un po' negativa vi ha fatto un po', come dire, fare una riunione speciale nella quale avete aggiustato il tiro, oppure ormai la campagna è partita così, ve la prendete così? Allora, ci stiamo concentrando sul mercato adesso spagnolo, tedesco, francese e americano, ovviamente. L'Italia l'abbiamo un poco, ti dico la verità, siamo un po' fermi per quanto riguarda la comunicazione in Italia, proprio perché la risposta è stata fredda, nonostante noi siamo partiti in Italia qualche mese prima della campagna Kickstarter a parlarne, proprio a scendere nelle piazze praticamente, e non è servito. Quindi l'italiano è ancora abituato a entrare nel negozio, lo vedo, mi piace, lo compro. Quindi questa cosa, come tu hai detto, è una cosa esatta. Andare su Kickstarter, non capire bene, lo finanzio, però poi mi arriverà, come mi arriverà? Cioè, c'è ancora questa paura dell'e-commerce per quanto Sì. riguarda. Sì, a meno che non sono negozi, grandi store. Sì, Amazon piuttosto che Feltrinelli dove compri i libri, quei cose lì. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Ultime cose, poi dopo ci lasciamo proprio perché voglio dare un taglio, come dire, leggero a questo tipo di intervista, anche perché è un'intervista in corso d'opera. Mi piacerebbe sapere, quali sono state, secondo te, le esperienze che avete guadagnato, con le precedenti campagne di successo e non che poi avete riproposto, o comunque di cui avete fatto tesoro per Stay Away, perché voglio dire, se questa campagna alla fine ha avuto successo, secondo me anche grazie magari a qualche caduta e che avete avuto in passato e qualche successo, no? Non lo so, dimmi tu, magari siete ripartiti da zero, ma non credo. Questa è una domanda molto intelligente. Allora, noi siamo partiti proponendo un gioco per iOS, un gioco per iPhone, si chiamava Farm Attack, in realtà non è mai uscito e non so se uscirà mai, anche se qua è finito al 90% questo game. abbiamo scoperto che la comunità Kickstarter era molto fredda nei confronti del gioco, di questo tipo di giochi. Cioè, per farti capire, su Kickstarter spesso va quell'oggetto, quel prodotto che nel mercato reale non avrebbe senso. Questa è una cosa strana, però funziona così. Cioè, è come Kickstarter fosse alimentato da persone che finanziano progetti impossibili, diciamo così. Allora, per esempio, ci va il retro game a 8 bit che prende 200.000 dollari, oppure la tazza di Lovecraft e prende 200.000 dollari, cose improponibili, cioè nel senso improponibili forse per me italiano, cioè io non avrei una tazza di Lovecraft forse né online né dentro un magazzino o così. Oppure ecco un gioco a due dimensioni, sai, fanno quei retro game a 8 bit, quelle cose così. Vanno molto su Kickstarter perché probabilmente nessuna casa produttrice di videogiochi moderna lo pubblicherebbe. Quindi in generale tutto quello che può essere considerato indie, nel senso di indipendente e fu fuori dal mainstream, quindi fuori da quello che si vende normalmente, tu dici su Kickstarter invece è frequentato da quelle persone che cercano queste cose qua, cioè la cosa che non esiste e che non trovi altrove. Fondamentalmente siamo di fronte a quello che si chiama il fenomeno della coda lunga, che è stato intercettato molto bene da Amazon con i libri, cioè Amazon ha avuto successo perché era al contrario di una libreria, cioè quindi costava più o meno quanto una libreria, perlomeno in passato, adesso sta facendo dei prezzi che sono imbattibili, però in passato non avendo quelle quantità di vendite. Si avvaleva del fatto che Amazon poteva proporti tutta quella serie di libri che una libreria normale non avrebbe mai potuto tenere a magazzino perché magari ne veniva venduto uno ogni 3 anni, e invece Amazon con il suo magazzino unico per tutto il mondo riusciva a fare e si è avvalsa appunto, diciamo, della coda lunga, cioè nel grafico. Se tu ti immagini il grafico come una gaussiana che descrive una sorta di dinosauro, no? Sai il triceratopo che fa prima piccolo, poi sale alto, c'ha la gobba e poi in fondo c'ha questa codona lunga di tutti i clienti piccolini che insieme, tutti insieme, fanno una grandissima massa, però ti comprano il singolo pezzo che se lo dovessi tenere a magazzino costerebbe troppo. Perché ho detto tutto questo qua? Perché voglio spiegare semplicemente che Kickstarter si occupa di andare a soddisfare le esigenze di tantissime persone se le prende a carattere mondiale, ma di una piccola, piccolissima nicchia se le prende a carattere locale. Quindi localmente il tizio in fissa per Cthulhu che vuole appunto, hai fatto l'esempio della tazza di Cthulhu perché è preso benissimo dai racconti di H.P. Lovecraft, non trova la tazza da nessuna parte a meno che non va, che ne so, in una convention e magari non la trova nemmeno lì. Però come lui ce ne sono magari altri 1.000 in tutto il mondo che finché non si incontrano, perché sono sparsi in tutto il mondo, nessuno se ne accorge di loro. Ma poi arriva Mister Nessuno che fa la campagna tazza di Cthulhu su Kickstarter e viene tutto polarizzato lì e si becca quei 1.000 supporter, quindi quei 1.000 backer, e quindi la campagna poi ha successo. Qui parliamo di campagne, cioè come dire. Tu adesso sei soddisfatto o comunque sei contento del fatto che hai raggiunto i tuoi 8.000 euro di goal con esili 300 supporter, quindi 300 backer, ma appunto 1.000 persone che acquistano tutti insieme in anticipo un oggetto fanno la felicità di qualsiasi persona che faccia come dire, una campagna Kickstarter. Questo è uno. Me ne vuoi raccontare almeno un altro di come dire, di guadagno che hai fatto dalle precedenti campagne che hai riportato su Stay Allora, Away? ti racconto un aneddoto di una tragedia. In realtà, con la prima campagna dei dadi, abbiamo sottovalutato il discorso spedizioni e ci siamo affidati purtroppo alle Poste Italiane, devo dirlo, ed è successo un macello. Sì, non mi stupisce, non mi Un stupisce. macello. In primis, da parte vostra, non mi stupisce che abbiate sottovalutato l'aspetto delle spedizioni, che invece è fondamentale sia dal punto di vista dei costi che dell'organizzazione. In secondo, poi, vabbè, mai detto Poste Italiane, purtroppo l'esperienza di tutti i giorni non me le fa vedere come un'entità di efficienza. In realtà abbiamo perso 1600 dadi che abbiamo dovuto Rispedire. rispedire, rifare e rispedire, e ci è costata, Madonna. io non te lo dico, cioè è stata praticamente quasi fallimentare la Ci campagna. credo, ci Quindi credo. siamo subito ricorsi ai ripari, poi abbiamo fatto altre campagne, poi abbiamo fatto una campagna che si chiamava Mimì, che era una trottola che scriveva autonomamente su iPad, L'ho vista, molto bella. su dispositivi capacitivi. Sì. Non è stata capita su Kickstarter, almeno perché è stata associata a dispositivi iOS non visti bene, diciamo, dalla comunità Kickstarter, che è una comunità un po' più, diciamo, Sì, nerd. indie, e quindi Sì, nerd. iOS viene visto come, insomma, il capo che ti vuole chiudere il sistema operativo, e quindi non ti dà la libertà di customizzare il tuo Android, appunto. Sì, no, lo capisco. Io, secondo me, qui sto vedendo, come dire, una sequenza di progetti. E qui io vedo che voi avete messo in atto un'azione molto di successo, che però viene capita poco, ovvero il cancellare le campagne. Allora, in generale, se si può, è meglio non far fallire una campagna, ma piuttosto cancellarla. Questo perché nelle ricerche di Kickstarter si evita che venga fuori una campagna no, che non ha avuto successo. Quindi, per esempio, sono interessato a Stay Away, ma Stay Away in passato ha avuto una campagna che è già partita, però non ha raggiunto gli obiettivi ed è fallita. Quindi l'avete portata fino in fondo, ma non è riuscita ad arrivare alla sua soglia. Se adesso voi ripartite con una nuova campagna che si chiama sempre Stay Away, Cthulhu is back, chi fa una ricerca mettendo Stay Away Sì. vede che effettivamente in passato la campagna aveva fallito, e quindi si associa, come dire, alla parola Stay Away un'esperienza pregressa di fallimento. Al contrario, ho visto che voi molte di queste campagne le avete cancellate, quindi se per caso ripartite, tipo riparti con Mimì, se Sì. riparti con Mimì e qualcuno scrive Mimì sulla la ricerca di Kickstarter, esce fuori solo una nuova campagna, quella cancellata è stata proprio deindicizzata. Sì. Quindi questo Guarda, sicuramente. il motivo non è solo questo. Allora, qua ti dico un piccolo segretino, se così si può dire, perché poi fin quando non scendi in campo, certe cose non le riesci a capire, non ti rendi conto. Praticamente, quando parte una campagna Kickstarter, che sia stata fatta pubblicità o meno, marketing giusto o meno, se nei primi 30 minuti non arriva neanche un backer, la campagna è bella che è finita. Sì, sono abbastanza d'accordo. Sì, questo qui è una cosa che sì, andava detta, però effettivamente sì. Ci devono essere già dei backer pronti a campagna che parte a cliccare lì sul pledge. Sì, se non ci sono vuol dire che c'è qualcosa che hai fatto sbagliato. Sì, no, è una sorta di catena di Sant'Antonio. Sì. Allora, noi abbiamo visto che durante anche delle giornate, non solo all'inizio, quando qualcuno inizia a ritirare il pledge, perché lo può ritirare perché ha visto un altro gioco che gli piaceva di più, non vuole più spendere quei soldi, in realtà va a catena. Un utente toglie il pledge, poi arriva un altro, poi un altro, e devi essere bravo a fermare immediatamente questa catena, perché questo vale sia a salire che a scendere, quindi sia quando tolgono il pledge che quando lo mettono. Quando lo mettono, È virale. ne arrivano anche 5-6 insieme, poi silenzio. Quando lo iniziano a togliere, è come si fossero messi d'accordo, però non è così. In realtà è come l'utente si facesse guidare dall'andamento della campagna stessa. Sì, certo. Se io vedo che oggi ci sono, non so, tot Baker 248 e adesso due persone vanno via, tra mezz'ora ritorno 40, 47, 46, 45, ah, adesso lo tolgo pure io. È quasi un accodarsi, ma Ho capito, ho capito. Sì, non questo è un sembra. fenomeno, secondo me, che deve trarre, come dire, radice sull'aspetto psicologico. In generale, va considerato che, tutte le volte che tu, vai, cioè la differenza fra un acquisto normale e il supportare una campagna Kickstarter, è proprio quella che tu hai la sensazione di prendere parte in maniera attiva a qualcosa che tu stai, come dire, supportando, cioè che stai dicendo io credo in questo. Quindi nel momento in cui vedi che tante altre persone ci stanno credendo, quindi tanti altri backers stanno supportando come te, ti senti in un certo senso gratificato del fatto che stai credendo in qualcosa in cui anche gli altri credono. Quindi sensazione di, come dire, comunità piuttosto che sensazione di conforto nell'aver supportato qualcosa che anche gli altri, di cui anche gli altri vedono il successo. Chiaramente questa cosa funziona anche al contrario, cioè nel momento in cui la campagna viene abbandonata con una certa regolarità dai backer, qualcuno comincia a sospettare e dirà: ma perché loro l'hanno fatto? Non voglio essere, come dire, non voglio supportare qualcosa che alla fine fallirà, perché altrimenti un pezzettino di me fallirà insieme a quella campagna lì. E, insomma, è un fenomeno psicologico che sarebbe da studiare. Mi sto già muovendo per interpellare qualche psicologo, proprio per chiedere quello che, diciamo, sull'aspetto tecnico, solo che ancora devo trovare l'incontro fra psicologo e chi conosce Kickstarter in Italia. E, insomma, se hai qualche consiglio da darmi, qualche psicologo che conosce Kickstarter, perché ho interpellato qualcuno, ma non conosceva minimamente Kickstarter, quindi non riesco a far incontrare queste due insiemi che a quanto pare siano, non so perché, ma sembra che siano uno esclusivo dell'altro. E niente, io ti chiedo, la cortesia di stoppare qui per poterci vedere in un secondo momento a campagna finita, Certo. perché vorrei proprio che si facesse una sorta di tiriamo le somme e si va a guardare anche, non dico subito dopo la campagna finita perché sarai pieno di cose da fare. Ma come dire, anche un mesetto dopo per capire come ti stai muovendo, come è finita la campagna, perché la parte finale della campagna è molto importante per dare il colpo, la botta finale al prezzo, Sì. cioè alla quantità che riusciamo ad accumulare, quindi sì. Un'ultima cosa, proprio ultima, ultima, poi ci lasciamo. Ho visto che hai fatto 17 updates per questo tipo di campagna. Secondo te sono tanti, sono pochi? Perché ne hai fatti questa quantità? Allora, gli updates ti servono per informare i backers ovviamente dei goal raggiunti, quindi sbloccare piccole sorpresine che noi in questa campagna stiamo dando in corso. Diamo dei poster in alta risoluzione, delle carte in formato A3, che poi l'utente può stamparsi, metterselo come salvaschermo, insomma, sceglie lui. Sono delle piccole ricompense. Poi ci saranno anche delle ricompense fisiche, diciamo Sì, così, sì, sì. un dado, un gettone, ecco, la tazza. Torniamo al discorso della tazza. Esatto. Diciamo che 17 update sono tanti, però noi l'abbiamo fatto perché l'update ti fa tornare i backers sulla campagna. Quindi ti fa salire sulle quelle famose classifiche di KickTrack e Kickstarter. Perché c'è un altro discorso che non abbiamo affrontato. Quando affondi nelle classifiche, visto che su Kickstarter attualmente ci sono, mi sembra, 4.000 e passa progetti, tutti attivi contemporaneamente, quando affondi nelle classifiche, poi non risali più. È molto difficile risalire. Quindi non hai visibilità. L'update ti serve per far tornare quei 250 backers sulla campagna, quindi darti quel colpo che ti fa scalare 30-40 posizioni, diciamo così. E Sì, chiarissimo. diciamo quindi, oltre a informare i backers di varie situazioni, furbamente ti serve Sì, per sì, sì. sopravvivere. Sì, quindi diciamo che in generale l'update viene utilizzato in maniera sempre qui, anche qui sul bilico fra la pubblicità e la vera informazione, cioè il fatto che tu debba sostanzialmente dire qualcosa ai tuoi backer di reale. E sì, io in generale un'ultima cosa tu mi hai dato un dato che mi ha fatto un po' mi ha reso un po', diciamo, mi ha messo in allerta, cioè mi hai detto le precedenti campagne, o comunque in generale, noi stiamo vedendo che il 50% della clientela viene da dentro il sito Kickstarter, quindi viene da persone che, diciamocela molto semplicemente, cazzeggiano su Kickstarter guardando progetti che gli possono Sì, interessare. sono degli abitué, sì. Sì, esatto. Io in E realtà se su... dico, scusa, ti dico questa Sì. cosa perché altrimenti la dimentico, mi collego a questa cosa che hai detto tu. In realtà sono anche persone, sono anche utenti particolari. Noi abbiamo fatto circa 1.000 backers con le 3 campagne precedenti dei dadi, sono tornati una decina di loro perché ci hanno detto che loro in realtà sono interessati solamente all'oggetto dado. Sì, Non al gioco, ma al dato. Quindi probabilmente sono collezionisti. non mi E stupisce, sì. quindi c'è anche questo discorso qua, che chi compra dadi su Kickstarter poi compra solo dadi. Sì, no, Ecco. non necessariamente compra giochi da tavolo, Certo, se non certo. pieni di dadi. Bravo, bravo. Sì, ecco, il consiglio che volevo darti io viene più che altro da una sorta di statistica che conosco legata ai giochi che partono dall'America per gli americani, ovvero in America il sito di riferimento per i giochi da tavolo è sicuramente Board Game Geek. Su Sì. Board Game Geek, ecco, le statistiche degli altri progetti dicono che appunto il 50% che tu adesso attribuisci a Kickstarter, in realtà nella maggior parte degli altri progetti viene da Board Game Geek, cioè da forum di Board Game Geek, thread di discussione, pagina di Stay Away su Board Game Geek che immagino esista. Quindi sicuramente quello potrebbe essere un nuovo canale che nelle future campagne potrai utilizzare, oppure in corso d'opera se vuoi cominciare a cavalcare l'onda. Insomma, il mio consiglio è Board Game Geek perché Sì. riesci ad andare in trending appunto su BGG piuttosto che su Kickstarter, e lì hai una clientela più che selezionata, cioè proprio filtrata. Li becchi solamente, appunto, sono solo i giocatori da tavolo, e addirittura potresti andare a cercare di intercettare solo i casual gamer, o comunque i principalmente casual gamer, andando magari a vedere quelle che sono le liste degli oggetti dei giochi da tavolo posseduti dai vari utenti, oppure alcune, insomma. BGG te lo consiglio, se non ci sei, Sì. se, Ecco, non ave se ancora non ci avete fatto, come dire, non ci avete martellato seriamente, è l'ora di Federico, ci farlo. siamo stati, ci sono arrivati, meno le statistiche di Kickstarter portano una decina di utenti fino ad ora per questo progetto, Ok, pochi. pochi, però il problema è che anche le statistiche di da Kickstarter non è che sono proprio precise, perché c'è un traffico diretto. Tipo 50 backer abbiamo adesso. Questo traffico diretto non si capisce da dove arrivano queste persone. Quindi può essere anche che sono persone di questo sito che poi si sono collegate successivamente e l'hanno acquistato. Ecco, Sì, quindi. chiaramente non è facilissimo andare a capire. Da dove vieni, dalle statistiche di Kickstarter, che non sono super specifiche. Comunque è un bel consiglio, sì, perché comunque è una sorta di mecca del gioco. Sì, lì trovi, ecco, hai detto Mecca è la parola giusta, perché lì trovi quelli che possono essere considerati gli evangelisti del gioco da tavolo, cioè coloro che ai quali, cioè chi è su BGG con regolarità. È colui che solitamente nella vita reale viene preso come punto di riferimento per chiedere qualcosa legato al gioco da tavolo. Quindi sono i leader, gli ambasciatori di quello che poi sarà quello che la più larga fetta di popolazione dei giocatori giocherà a seguito, diciamo, di questa prima scrematura che viene fatta da questi. Come dire, da questi Guru. ambasciatori. Sì, da questi. Bravo, hai detto la parola giusta, da questi guru del gioco da tavolo. Va bene, dai, abbiamo detto molto, non tutto, perché ci teniamo qualcosina per poi quando ci risentiremo alla fine della campagna. Io per ora ti auguro chiaramente un grandissimo successo con questa campagna qua Grazie. e niente, ci risentiamo direi non più tardi di un mese, un mese e Va benissimo, va benissimo. Ci sarò. mezzo. Grazie Antonio Grazie. e buona serata.